che insolenza che feci di fu. Cosa dici, cosa è, cosa è l'arbo? Ascoltate, che parla di su. Ascoltate, che parla di su. Dal balcone che guarda il giardino, milincosa oggi dici tra mezzo, e poc'anzi può darsi di peggio, quindi io non si, io mi uscito giù. Dal balcone, vedete, io lo fami in giardino. Sì. Cosa tempo? Questo incisco, certo. Ma ricordo che vengo ancora qui. Dunque un mondo dov'è, dove cito? La turrati il belvone fuggito, e ad un tratto di vista lo sì. Se ti faccio su tutto lo vidi. Facilo. Cosa ridi? Facilo. Cosa ridi? Facilo. Tu sei cotto da sorgere da lì. Tu sei cotto da sorgere da lì. Ma ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone, in giardino, in giardino. Ma signore, se lei parla il vero, segui pure, segui pure. E in volta il vedesti, no, no, no, dico, ascolta, no, dico, ascolta. Mia piangione sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, c'è che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di là, sono io stesso saltato di là. Chi vuoi stesso? Che stupor! Chi vuoi stesso? Che stupor! Che stupor! Già credo non posso! Come mai diventasti si grosso? Già credo non posso! Non posso! Poi il salto non fosti così! Ah, chi salta succede così? Chi direbbe? Insisti un pazzo! Tu che dici? Aiutarmi il ragazzo! E lo vino! Maledetto, maledetto! E saputo, e saputo! Da Siviglia cavallo qui giunto! Da Siviglio e forse sarà. Questo no, chi il cavallo? Io lo vidi saltare di là. Che pazienza! Finiamo questo ballo! Che finirà! Dunque tu, salta giù! Perché? Il timor, l'armi chiuso. Aspettando quel caro visetto, ti petato un sussurro forduso. Voi gritaste, ho scritto. Salta in giù dal terrore confuso, è stravolto ma un nervo del piede. Costretto a versare l'anteste carte che permette. Porgili a me. Sono in trappola. Sono in trappola. Dite un po', questo foglio cos'è? Tosto, tosto. Ne ho tanti. Aspettate. Sarà forse il sommario dei diti. No, la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo. Lascialo, e parli. Parto sì, ma se torno a te. Lascialo. Vanne, non temo di te. Lascialo. Parto sì, ma se torno a te. Lascialo. Usanza.